Billy, su che andiamo, e con sé, soltanto di tu risiede ancora, oh yeah, cocco. Billy, oh yeah, su che andiamo. Oi, padre Ciuffoli. Chi è? Chi è che sta chiamando a padre Ciuffoli? Chi è? Che ha voci? Chi è? Su che andiamo? Oi Billy! Brigido! La dai, sei da posto! Sì, da posto, da mettere a posto! C'è tutto il computer che se ne sta andando a fanguarla! Sopra nuovo, cazzo, che soldi ce li hai! E di chi si attacca una rabovida? No, mi sto preparando due manzane in forno, aria presa con il peperoncino. Adesso le sto spaccando in due e poi faccio tutto il condimento. Buoni. Penso che serve un arrosso, tanto sono a riposo stanotte. E almeno ti riposi un po' le stanche membra. Sì, se sono sciolto con questo lavoro la trai da sciaffare. Che minimo ci vanno 3 giorni di riposo, non un giorno. E beh, fa recuperare tutti gli studi, altrimenti. Yeah, se ce l'ho messa in folla. E qua. Oh yeah. E sta cosa bella. In forra, Manuele. E beh, lo te lo sai come rendi? Sì, me ne sono alzato poco fa, me ne sono alzato. Ma se la pizzi c'è tutta la dingi. E io qua sono andato a fare la spesa. A Porto Torres, perché vado a Porto Torres a farla. Perché mi trovo meglio. E poi sono arrivato a Giumagnallo. E poi mi sono cucato, sbagliato. Sì, anche io. Non ho dormito, ma mi sono riposato almeno un po'. Secondo noi la sono stati minacciati. Domani devo fare lo stesso. Commissione. E vabbè. Allora domani mattina sono di servizio, però alle 2:30 10:30. E quindi domani mattina sei libero, là. Sì. Sono libero, sì. Oh, yeah. Beh. Almeno ti riposi un pochettino. Non ti gassai. Lui, cosa riposi? Lascia perdere, va. Riposi. Cazzo, ti dà una di riposo dopo di 20 lì. Sì, lo so. A recuperare, venivo. Ma non si può lavare avanti così. Non si può. Non è un canale di molti qua, non è entrato nessuno ancora, io e tu e molti. Avanti, vedi, e dice, ho preso cosa stai combinando quando va sciocchito? E mi seduto sono qua, me ne sono alzato poco fa e sto parlando con Manuele. Ciao Manuele, buonasera. No, io mi sto facendo roba a casa, ma dopo tutta la stufa gira, la stufa a pelle è accesa e sto facendo scaldare un po' la situazione ecologica, no? Opla. Ciao Manuele. Ciao Asco, ma qualche pompa di calore c'hai, cioè, quelli portatili, non ne hai per le mani? No, pompa di calore niente, Manuele. Lo devo trovare uno, per scaldare almeno nella sale, in camera. Ma perché non hai stufa? Sì, ce l'ho, però la uso per cucina qua. Non devo cazzo più posta da una bella lacca. Ti dico, ma ci stufi anche una tuppa a zibro, bella, scaldano un casino, eh. Ah, ce li avevo due, cazzo che ho date, perché facevano puzza. Ma che puzza, il viraggio è un buon modo, le si risente, ma non è. C'ero io e cucina, avevamo caldo, me ne avevamo lì. Già lo so che danno caldo. Quelle vecchie partevano, ma non è. Quelle vecchie facevano odore. Questa che so io è Franco, che è elettrica, è a coso. Accende elettricamente, puoi regolare la potenza e tutto, e non ne fa odore, è ventilata. Guarda, questa è buona veramente. Da qua, da zibro, Sì, ti aggono i vasi. Chi si di Puveccio, chi è una di si di Puveccio, raggio. Però mi uso questa qui, che è ventilata. Manda l'aria calda, manda. Ah, se metto quelle come condizionatore, però portatile. No, senza tubo, però, sto cercando. Quello senza... che ti ammazza nel questo malome di corrente, visse, vai. Ma che ci sono quelle che non consumano tanto, Ma cosa, Manuele? Mira, mio, una signora, no. Lampada, non ha più passato. Anche il letto da rubiare alle stelle. Guarda, su Fazibro, io lo devo dire. Scalda benissimo e me l'ha fatto dopo il buio. Già lo so, sono quelle digitali. Ce l'avevo anche io, ti segnava quanto durava, quanto calore ci tirava. Quella lì, mi sa andava bene. Ma forse due la giurati, perché quando l'accendevo faceva odore. No, la mia non è fa odore, ha fatto appena la finestra, poi chiuso, e scalda benissimo. Io ce l'ho a 23 gradi, no, vedete, una bomba. Già lo so, già scalda. Un condizionatore, così i bulletti di Perugia arrivano a Ristelli. Tanto già mi sono arrivati i bolletti. Poi il condizionatore che su mi guido e tutto, dopo mi dai la ripulita. È fondamentale che dice che non consuma tanto, che risparmia di meno di chi ce la sto fa a pelle. Vai, che c'è una bulletta che ti ritiri di veri. Ma non è prova per credere, poi mi dai la risposta. Ma io ho la stufa a pelle che ce l'ho accesa adesso e me l'ho tutta pulita e sistemata. E più va giù la stufa a buio in cucina, e qua si sta da Dio. Già lo so, come lo posso immaginare, già lo so. E dopo già l'hai visto quanto scalda in cucina, già mi sei giunto, no? Sì, certo, già lo so, com'è. Cata, figurati in alta riga, andrò a morire in cucina, non beccai, ti mando a petto nudo, non ti dico altro. Io già lo so. Io faccio che sa il libro, ma piacco non ne faccio, Emanuele, il 6 gennaio scorso, quando un uomo... L'hai pagato a un bel, però... Si è sentito male andando a sbattere con la macchina... È di lusso. Il codice... Ma con la bombola che le stanno facendo, ventilate come sono. Vai, vai. Possibile. Sì, però una signora che non vi so sta a casa, non è trattenni. Insomma, la bombola è corrente, vista. Che cazzo... buonasera a me. Quella di ciao tu, e quella dici tu, quella che funziona a bombola e a gas, automaticamente, quella lì, funziona elettrico e a gas, e consuma di correnti e gas. Vai tu, e beh tu lì. E allora ci dico, ciao Franco, ciao Rattarino, che sentite più la televisione che Rattarino. Ciao Tomì, buonasera. Buonasera anche a te, ma anche a te che vieni. Ma stasera non ero bene nulla, lo vedi? Potevi telefonarmi però. Mi sono cominciato a dare, stavo prendendo, quindi... E poi la tuffa a pelle, te l'ho trasmontata, pulita la ventola, pulito tutto, l'ho finita poco fa a me. E allora vedi cosa? E la tuffa a pelle sta giù pulito, anche per un anno che non ricordo la manutenzione. E te lo vuoi buono, 2-3 minuti e poi un po' di gas mi fa. Allora, andiamo a vedere. Un attimino con i manometri. Cosa? Che ci vuole un attimo. Lo so, però, già più una vita è passata, poi, vabbè. Vediamo domani se lo facciamo, dai. Papà, ti ricordi quando sei venuto a caricare il fossetto? Eh? E ti avevo chiamato che faceva ancora il suo problema che si ha la spia, ti ricordi? La spia? E si va la spia con la spia rossa e ti dava cosa, non so cosa ti dice. diceva. E me? Che andava male, non andava. Ma poi andava e dove? Ma quello può essere pure il caso, anche per la misura di temperatura, la mia roba. Anche il mio ogni tanto si accende, Ma vai putrendo lei. Sì, era destra quando ti ho detto che c'era quel caldo, naturalmente per avere su gai, che non si buttava a casa, che andava male, che non riusciva a raffreddare. Invece controlla la griglia di dietro, ossia che sia intasata di polvere, pulisce sempre quella griglia, la condensazione. Dove c'è la griglia, dove c'è il motore. Quella lì pulisce da sempre, quella condensazione è un bel importante, capito? Ma è pulita dietro, arriva pure da Bururu, è pulita dietro. Vabbè, bene, sta raffreddando. Sì, secondo me era il caldo che non riusciva a raffreddare. Cazzo, ti dico che faceva quel caldo pauroso. Beh, anche il mio me l'ha fatto, poi io li ricordo, non puoi fare, adesso sta funzionando benissimo. Andare. Ah, cazzo si deve una pelle, ma come se la ci va a fatto? Non va in presa due agitacche. Ma se non mi funzionava, era il cazzo tutto scongelato. Cazzo, se il cazzo mi ha preso l'erba, se la funziona da un abbraccio. Ma dov'è? Riprendi tu lì. C'è anche Natalino. Ah, è Natalino, riprendi. C'è un cane qua che si sta tentando le patatine, ragazzi. Dille legare le patatine, che sono i miei. Le legare le patatine, la carica di base ne mani. Non so. La roba saliva, la roba saliva. Ti intendi? Beh, un pacco di patatine la porto mia moglie, no? E dentro si rivola ricchi a migliaia. Io. Adesso voglio provare questo Tanner più 3 che c'ho, a vedere come funziona, magari ti sono Tanner più 3. Cosa fa? Adesso faccio sentire il Tanner più 3, l'ha giusto modificato, e se invece funziona bene, perché non l'ho ancora provato. Via. Ma lui, a te mente arrivo. Via, modulazione bella Super 5. E tu, come ascolti? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma la modulazione mi interessa, il segnale arrivo... Come sta qua mi si può dire, dai. Poi a te, non ti capisco. Perché lo Santiago Z, lo sei Santiago 9 più Z, come lo si conviene? Cosa hai messo? Qualche ferrazzino sotto. La radio è ottima, Super 5. No, non c'ho niente, che cazzo fa la radio? La radio si è collegata. Santiago 9 5. Che cosa ne so, Natalie? Io ti sento bene, Manuel, ti sento benissimo. Tu ti metti in via prima, sì, allora ti so che ti vedi lui, ma io non faccio toccato nulla. Sarà roba in dai, boh. Anche a me mi stai arrivando più di 9 qua, 9, 9, 5, là. È un fatto. Sì, già va bene, l'importante è che esce di modulazione. Sì, a voglia. Guarda questo Tanner più 3, com'è, Natalie? Anda bene meda, ottimo. Tony, è da te com'è? Forte, forte, dal 5 super bella cappa di positivo. Manuel, e tu non mi ascolti? Sì, cazzo, una cosa di Smith, my friend. Cazzo, come ti ascolti? Ti so che tu dici pure con un cavo, con un filo solo, dici tu. Infatti l'altra volta dice che sono con un filo senza antenna, figurati. Magari avrà la zona che sei tu, cazzo, tabù, chiivi, uia. Cosa rita, Ok, ui. A me mi pare che mi muovo un traliccio di 40 metri e mi muovo l'antenna sopra. Ehi, fai così, Tony. La zona non ce l'ha brutta la zona Tonino, Cazzo lì è tutto aperto lo stesso. C'è bene Tonino. Ma Franco va una zona invidiabile a Rio. No, Franco c'ha una bella zona, non so, ci sono salito sul tetto e cazzo, è tutto a bic, vedi tutto. Sì, l'antenna di caucciù, vai, ma varai a lì, però già esci per mattessimi. Tanto si può ripone un pezzo di virus, esce uguale. La piccola. E allora l'antenna di gomma, ciò. Allora l'abbiamo comparato al supermercato io e Franco. Non l'avevamo di gomma l'antenna. E allora. Ofra! Tony, dimmi. Che ricordi che si mangia un bel focaccia rotonda con tre di mortadella? Con tre di mortadella e due focche, una focaccia. Certo, una focaccia, allucinante. Dopo si va a mettere il grasso, che non è stata la macchina. Chi sta parlando? Ma sono esagerati, Manuele. Non dico cazzo due etti, io me la mangio con due etti e mezzo. Sono esagerati, Franco e Torino. Torino di più, cazzo. La giornata è stata più la macchina. Coraggio! Questo è esagerato, questo Donino, cazzo, tre etti di mortadella. Ma dimmi tu. Sì, ma dividi in due, sono un etti e mezzo. Meno male che sono a dieta io, che ho calato almeno 15 kg. A me mi pare che posso 30 kg in più. Cazzo, 15 kg li ho calati. Mi ha visto una tarina, mi ha visto deferito, si è spaventato. Si è succiato che era un becciciotto. No, che era magro magro, era magrolino, mi l'ho visto, cazzo, era deperito, era grave notevole deperimento organico, salvo complicazioni. Dici, l'ha detto così il dottore. A me mi pare da tanti, se tu fai un giro tondo intorno alla Manuele, mi sei un'ora e mezzo a girarlo. Non riesci, lo vorrei abbracciare, ma non bisogna correre di sci, Doni. Che mi vuoi tre passate, abbracciato. Vai, vai, cosa sei disvegli? Oh, e Simone ha fatto un rumore, cazzo, casino ogni giorno, ma è che ho fatto capire. Ma non c'è quella questione che avevo fatto io a questa tipa, la procuratore della Repubblica, te lo ricordi? A me? Gli è arrivato ieri mattina, cazzo, mi ha fatto un casino. Lui. 20.000 euro di multa e buttare tutto a terra. Vai tu. Vai di casa, vai, di casa, vai. Mi ha minacciato, mi sono attaccato a me e ho fatto una bella denuncia per minacce. Allora sono tranquillo, mi sono tutelato. Con chi c'è, non è che tu andi di cuda, che da voi la ragione passano tutto. E Giovanni, lì si dovevo fare. Ah, dopo passi al torto sito, denunciare lui, lì cazzo passa un casino a lui. Infatti, da Simile che si limita, peggio Maetta che mi ha rotto le balle. Già vedo di Simone che era da per rompiti le balle, ma adesso, ma le zicate mi hanno avuto. Peggio Maetti. Per carità, cazzo. E oggi vi faccio qualche hamburger col ketchup e ci spacco un po' di quella crema sformabile nel manino buono, cazzo. E beh, guardi lì, messo il piatto lì. Che cosa? Guardi lì, quella la letta, usate due armoni. Il relì, la rete, come si insegna? Pietro, te l'ha messo quel relì? Il relì? Sì, cos'hai? Dal pistolcino, cos'hai? Di saltatura, cosa mancava? Cazzo, la bialetta, che cazzo è un relì? No, allora l'ho comprata e niente, era quella che era mezzo tozzinata, dimessa. Me l'ha cambiata, poteva arrivare a cadere perché non ce l'aveva. E in più ho preso un altro pezzo che si era accorto Valentino, aveva la testina di oscillazione asciutta e l'ho preso una nuova. Domani la vado in piazza queste due cose e la macchina è perfetta. Ma quella dei cerchi, che manca il coso dei cerchi, la piombatura? No, là ci vuole distanziatori, però non va bene anche così senza distanziatori. E non ti vibra la macchina, scusa. Cosa? La macchina non vibra senza distanziatori. Siccome hai messo i cerchioni mio figlio più grandi, capito? Sono da 15 questi qua, quindi automaticamente c'è un po' di distanziatori, comunque va bene lo stesso. Quindi, perché sono in lega. Vai tu, vai fra. Per forza, perché quelli lì servono per i bolloni, altrimenti il bollone è troppo lungo e lo spezza. Paghi sui simboli, questi distanziatori, tutto lì. Carito, cara cava, vai Natalino. Cara, sono qua che mi sto ascoltando. Poco fa era un canale di morti, cazzo, io e Emanuele solo c'eravamo. Aspettando appunto che la bambina... Non entrando più nessuno. Perché è stata fatta... Sì, andate, fate biondo, forse ho spazzolato, ma nessuno spiegò tutto per la notte. E ancora ci ho migliato un pacco di nervetti conditi con le olive per sempre. Mamma mia, te lo... Mamma mia, tu mi sei fatto venire la canna di scendere in cucina e fammi rubanino, va. Io oggi ho fatto pasta al tonno, ho fatto il sugo, l'ho fatto il cazzo, ci do una bomba. E più, fai legato alla veneziana, mo fatto, ma una bomba. Natalini, devi fare un fica dove si uscica, che mi è buono. E sanguinaccio devi fare, Torino. Che cosa? E sanguinaccio. Quello lo fai tu con la felice, sai dove andare, che sei vicino a te. E così ti hai pure pace in bocca. Ma non è che sei asciugato. E beh, caputo. Franco. Lo faccio marino, Natalini. Uia, Toni, dimmi, dimmi. Ci ho nominato il Nerviti, Cunniti, Cusicola e Musso e Parizzo Tugante, la fame è giunta. E a mezzo mio, chi chiuda? La merenda devi venire qua. Emanuele, però ce n'ha bisogno, curarito, cazzo, che è deferito. Curarito, deferito, uia, la carità. Ma domani da me la giovinca agito e tu sei deferito. Fa una cosa, poi un po' la dieta e fate 20 km da lì. Oh signore. E se no Franco, che andando a farsi un caffè, può pure farsi un gumi. E ma è da andare a farsi un panino con un caffè? Sì, ma da uno e l'altro. Da un cimè. Una fesseria si è mangiato. Una di propagazione per me. Non sto guardando più, giro impegnato tutto il giorno, mamma mia. Dovevo cucinare, buio, e quindi non avevo tempo di guardare se ce n'era. Poi me ne passo in diragana di tutto. Emanuele! Ah, Emanuele è controllando il forro, cosa si ribrucia, che cosa? Franco, è sull'ora di svegliata di un bel forte propagazione, che a me mi viene già fame da lì. Cosa tu mica, c'è questa cazzo della televisione che mi sta dando fastidio, non capisco bene. Ho detto che a me mi sta già venendo fame. Ma io no, alle 7 mangio, verso le 7. Ho detto che sei la regina. 7 e mezzo, dai. La regina. Vabbè. Anch'io più o meno mangio 7 o 4, 7 e mezzo. Mi sto abituando a mangiare presto, così almeno quando mi corico già digerito, perché sennò mi corico troppo in presa. Se io mangio tardi è un casino, capito? Mi viene male, però dalla letto sono ancora pieno. E così aveva già fatto io, Matteo. Che cosa? Beh, ieri Emanuele, a mangiare. La fame è giunta pure a te, anche a Franco ha fatto cose, hai parito me. E poi due fette nel cane e cavallo, e mezzo di cervello rosso a questa sera. Senti, pulizia, deprimento organico? E io, cazzo, mi devo rinforzare un po', Tony, cazzo, sono magro, Beh, se tu lo dici agli altri già ci credono. Infatti, sì. Ti muovo la candida da dentro, ti faccio una radiografia, sei trasparente, il vento mi si porta pure, devo mettere il piombo quando esco. Adesso ti metto la cadena dietro, ti farò la radiografia, anche se è invisibile. 4 kg di carne di cavallo, 2 kg di bistecca di maiale e un litro di vino. Che tu sei parito a mangiare, no? Cosa? Lasciamo da solo e non vedi più, a mangiare. No, sono andato perché ho messo il tosta a fare, capito? Tu sei a mangiare, Natali, te. Allora. Grazie. E poi ci ridosso, a chi pure è, del deferito, mi frango. Non te la vai da così. E ha fatto il tosto e il prosciutto cotto, capito? Bisogna rinforzarsi, sennò è un casino. Oh, io Sant'Antonio mio. Oh, comunque fai lì, Torino, non ne gioco più freddi. Mi sono tuffato. E a chi c'ho ancora due pacche e mezzo? Chi li vuole venire dopo? Tanto non li posso più io. Ora, poi si è fatta già buona. Pronta, mania. E almeno non fai fatica, capito? Fatica no, perché io c'ho tutto quanto elettronico, posso tutto quanto elettricamente, quindi no, fatica non faccio. Però dai, quando vado in pasta da sta quattro zincoli, a me che ho mi rompo i cattoli. Mi viene caro la sera e non posso farlo perché cosa mangio? Mezzanotte mangio. E allora niente. Quando asciugare, andate per la pizza. Una bella taglietta a sera, una bella ruota di antidossi. Guarda, se ti fai i conti, come ricompararla, Quello è vero, lo so. Risparmi comunque, vabbè, ma ti costruiamo pure la corrente, ti non fuori. facendo. Ma noi non c'è proprio che non c'è niente, anche se subito, andiamo alla collezione. Ah, le dimmi di una teglia, 10 euro, o 12 euro, non so quant'è, e te la mangi, capito? Ed è già pronta. No, io ho preso quella piccolina da zero, e per me mi basta, ne avanza pure, e pensa un po'. Bello. Ma io l'ho fatta, ma non c'ha nessun sapore questa farina qua, non ho capito il perché. No, la mia c'è sapore, capita. No, non posso più, vuoi fare la giugana, sai che io sono riposato, basta. Ho detto, chiediamoci a due pacche ancora sigillate, io ho tolto 200 grammi, soltanto ce ne sono 300 grammi, perché è mezzo chilo ogni pacco. Un chilo e tre litri, no, buone buone. Chi se vuole fare una mega, fai lì, una riga. Mi pare che me ne è rimasta ancora 200 grammi, a me non ha giunto. Io mangio un pacco sigillato più 200 grammi di farina di ceci, ma se non riesco ad andare a comprarmi quell'affare per il forno, no, non le faccio perché mi esce male qua. Se no. Io l'ho fatta col forno elettrico a 190 gradi, un'oretta ed era fatta. Ma io a 180 un'oretta ho fatto. Sì, vabbè, 180-200, l'ho fatto scaldare e poi ci ho messo bene. Cioè, devi lasciare un bel, cioè, si manava a fare la candela magna a mezzanotte. Infatti, e come a fare? Quando non è passo? La, il pomeriggio a Trabone, sa che è, verso le 4:30-5, le 6 è già pronta. Infatti. Uia, quasi pronta, su che andiamo. Capito, Romagnami? Uia. E la bilancia mi dice si paga di salire una volta. Ma io tutti da Manuela mangio a carne di cavallo, dai. Ma io? Ossa, l'altra di entrato in farmacia ha detto cazzo, chi si è presa la bilancia, l'ha detto si prega di salire uno alla volta. Per forza, l'ha visto, ha detto, torna tu, boh, basta, non ce n'è per te. La bilancia fa tutti, è vero Manuela? Guarda, io sono sempre uguale, no? Ingrassare, sono sempre da 20 anni in più, sono sempre uguale. E vai, filetina! Io sì, Ettore, da quando mi cresceva altro sono sempre lo stesso. Filetina, che avevo i quattro baci mattaroni, prima avevo un bacio, ora avevo quattro bacia, poi per la pazzita avevo la bacera. Esatto, faccio il pantalone. Ma non hai visto quel video di nessun tipo? Sei te, tutti quanti a chili. Ah, su, metti al limite, cazzo, adesso è proprio da paura. 650 chili, 3 chili di pasta asciutta e 3 chili di fettine si mangia la diviso. E adesso stava, gli avevano fatto non so che cosa, per farlo dimagrire. Allora io mi sarei al time invece, ti giù benzino e poi è morto praticamente. E pesava quasi 500 kg, enorme, un letto matrimoniale e un tappo da tutto, una cosa spaventosa, andare di buon piede ma con candino, un casino. L'avevo visto anche io con la gruetta, sì. Ma non è troppo, dai, così, canto mangiava, non si può. Tanto con la gru lo spostavano. Sì. Quelle gruette che usano per i motori. Ehi, di quelle lì, ma lo santo pensava, quasi 500 kg, 498 kg. Ui, ma cazzo così, da spararsi, no? Infatti poi è morto, ce l'ha fatta più. Andiamo qui, si è formato un culo. No, il grasso ha coperto il cuore, i piumoni, così mi dico, parasangue, il paragnostro. Cazzo. Infatti è per quello che bisogna stare attenti a mangiare. Ma se sai, sempre mangiando alla fine ingrassi, non è venuto da qua. Io oggi ho mangiato un arancio, mi sono mangiato. Pensa un po'. Non ce l'avevo tanto a fare perché sono arrivato un po' tardi. Un arancio al volo, sanguigno, buono, eh. Ho preso una busta. E vabbè, adesso mi faccio... Ho preso i salamini che le faccio sulla miglia, un po' di ketchup, poi ho quei nervetti e si spalma anche un po' di quella formaggio spalmabile. Dato bacio a mammi, ho capito. Un po' di prosciutto e il gioco è fatto. Io ce l'avevo la macchinetta di tos, e sa che me la posso trovare a misurita. Vergine Pescata. Io ce l'ho nuova nuova. Ma io ce l'ho lo stesso qua, nuova. Cioè, guarda, ti metti a fare il torto, ti rimani in quattro, sì. Infatti, ma io sono un sgobbio pendio. Mi rimane che prosciutto cotto, poi che c'è della puntina già pronta a fette. E mi ci vedo in pressa. No. Non basta, adesso butti la faccia a macchietta, non è tanto più. Perché in definitiva, quando ne mangi due, lo sai, fai veloce. E poi ti vedi che non ne mangi ancora. Ne fai due alla volta e via. Natalino. Fluia. Tutti quanti non la mangiano, se vuoi vedere. Tra un po' con cazzo mi venne qua, mi pure a me. Ma si intendi, no? Salame. Papà, non si intendi, no? Riprendi, Emanuele. E fatto, ma che guarda quella roba lì. C'è sempre cucina di salsiccia, di tutto. Andiamo a vedere. Emanuele, lascia le pensieroche. Sta la gommetta della base. Eia, via intere, già arrivi in occhi. E per il bevarone, vedo me. No, almeno me li pone per barone. Ora, allora, per chi non mi metto di peperone, mi metto una fettina in più. Allora non puoi mangiare. Tutto posso mangiare io, una te mi mangio. E pure il barone non si muove, eh? Un braccio russo. E lui deve muovere a me, mi odi. Mamma. Manuel, allarghi le natti che ne facciamo il tappone a culetto. Grazie, per carità. Ragazzi, non è vero, di cosa va via? Ti sono male, più tardi. Comunque sono sicuro, quello che abbiamo fatto là, se lo facevamo qua, eravamo messi male veramente, a chi non che lo so bravo, fai che travagli. Tu, qui, lascia perdere, qua non mi faccio neanche toccare io. E neanche io. Poi la seconda volta come quello che hai fatto tu l'ho fatto io, e sono andato da solo. Però quando ci vince come insegnato la panza, bevi la panza, la volta ci ti mai messo voce io. E per il ricovero ho fatto il venerdì, la domenica l'ho ricoverato e lunedì già c'è la frattura. Vabbè dai, passata, mamma mia, mi vuole pure. Ok. Già c'è un ragazzo simpatico all'ospedale, raga. È tutta una cagosa. Siamo attaccati all'ospedale, stiamo ampliandomi, adesso ce l'ha già finito, adesso poche mano. Addirittura ce ne dicono le barbiere dentro, tutto me. Ti avremmo che pure macchinetta, hai visto vedere macchinetta là giù, che cosa vira? Ehi, bello, ma vabbè, c'è tutto. Beh, non si può paragonare a Sassari, no, oppure a Cagliari, il lago Pedini. Lugo, Ravenna, Franco. Sono andato su in buccia da mangiare. E allora, quella è vicino alla macchinetta dei tau. A me mi si è facciato, mi devo andare a comprare a Miro un'uga. E cosa? La macchinetta dei tau? Sì, la più buru io, non mi ripassivo a che tau, mi ha dato. È vero che lì... La lì c'ho sempre, è abbastanza nuova, nera. Nel mobile, la lì, la taglio a culo che ho messo, c'è tanta di quella roba. L'ho messo un posicino lì, quando mi serve, vado, la prendo. Ma va, non ho reso con più fede la tarina, vedi dai. No, adesso un po' mi sono fermato. E fa, da voi di ciuffare. Invece Franco è ammantioso di chi si indossa. Non lo so. Niente, quando se ne faccio una dozzina e appoggio. Ma noi, la carabinizzana. E fa un po' già pronto, altri 5 minuti, devi andare. Allora, intendi Emanuele, cantelli, dimmi, dammi di andare in fondo. Ah no, fuia, tanto la sono di riposo oggi, già mi tocca domani. E allora approfitto la mamma di un bel via. Cazzo, per carità, mi stanno sciogliendo con questo lavoro. Beh, scioglietelo, dimmi, proprio io sono re. Sì, dai, modo di dire, scioglietelo non di corpo, ma di testa. Quello senza quel dubbio. Però, grazie a Dio, la fammi già non ti manca. No, quella già c'è, dai. E beh, cosa volevo dirti? Ma è a proposito di tua zia, tu tocchi quel lavoro là? Tutto bene, Tony, lascia perdere che già gli ho fatto un buon lavoro. Cazzo, la contenta, già lì caduto. Cazzo la zia, adesso c'è capace di stare in via, cazzo non apparare, boh. Pensa a tu se si muove le mani io a pulire l'apparario, cazzo rimane secco. Allora, per carità, no. Devo bene così, ma noi, ma fateci fuori il servito, eh. Sì, francese. E allora, ma visto che filo hanno usato? Fino vino vino, poi giallo verde, quel filo del cavo di terra, mica un macchio. Infatti lungo 40 anni fa è stato fatto con il piatto. Se no chi su di no, chi non era molto male. Ma c'è dopo tu fai un cazzo che era, guarda, si vede chi su vino, già sui capi, lui. Che sono tutti chiamati vini vini vini a voi 035 chi si chiedeva Nino che veniva da Baciù ed era bene di buon fuoco fatti un conto e beh anche tu sono fini vini è un carico non so di 1500 watt si surriscalda si brucia e oia cazzo che se l'ha fatto che si incanto via sembriaco non era sano no cazzo meno male ho preso ho fatto tutto a nuovo. In più mi hanno messo anche il contattore nuovo, mi era saltato anche il salvavita e gliel'ho messo nuovo, quello lì. Cazzo, ha già fatto tutti i gavi, tutto il bocciapoggio. A chi no chi era pericoloso a vivo. Quello che l'ha fatto era un criminale. Tu pensa che nel salotto praticamente dati la corsa alla paraccia, era un casino, mi dati a due fasi, due capi. Ok, alla fine ho detto no. Faccio tutto nuovo, gli ho fatto la camionetta a buonanotte, tanto ma così non sta a burina. E che capo, poi però la cosa dopo ci abbiamo pensato, con tuo nipote, Manuel, l'introduttore voleva penetrare dalla cucina verso il salotto, invece l'ha messo giù, e vabbè, comunque si può sempre fare, si fa la deviata, si fa pure. E qual è l'interruttore? Il salotto, allora, quando tu la cucina vai in salotto, praticamente ti devo dire che mi chiama la cosa a me, ma non è lì. L'interruttore l'ho messo proprio vicino come era prima più o meno, capito? Invece voleva verso la, dalla cucina, lei è sempre tra in cucina. Ah sì, per entrare in sala, sì, voleva lì infatti, ma infatti sì. Ma io dietro l'altro capo e chi pensate si riposo la deviata e dopo qualche interruttore, c'è da una parte spegne l'altra. In effetti andava così, perché da là doveva andare al, entrare al buio per accendere. Mi si scende il capo, devo metterlo lì, devo metterlo. Per carità. Vabbè, già, guarda, mi ha fatto scivolare il capo, era già fuso, eroga. Quanto poi ci sono passate la scala, lui? Sì, già lo so, case qui che sono, quella casa lì è stata fatta pezzo per pezzo, qui. Non hai visto che è un pezzo di pavimento diverso dell'altro? Sì, ma ognuno che andava faceva, togliava contro il giuglio e puniva PCI, ha ricimentato i capi, no, non si faccia così, dai. Ma non se ne so come l'ha fatto, chi l'ha fatto non lo so. Oioioi, vabbè, no, comunque dai, io vi lascio perché a parte scherzi mi sta venendo fame veramente. Comincio già a rocchio, uia, con la griglietta in ghisa. E mi faccio qualcosa, c'ho troppo fame, che oggi non c'è mai tutto, ma avanzo solo in quel provaggio. Dai, ok, mi saluto. Ciao Manuele, ciao Natalina, ciao Franco, statevi bene, buon proseguo. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Tony, ciao, buon proseguo. Ragazzi, avanti Manuele. Ehi, ciao Tony, dai, mi stacco anche io, ciao Natalina, ciao Franco, casomai ci sentiamo più tardi. Acceso o lascio acceso, dai. E già entro anche più tardi, Manuele, dai. Ehi, vabbè Manuele, buon proseguo anche a te, ci sentiamo più tardi all'inizio. Io già rimango in ascolto a scrivere già la storia e che dopo quando bagno accorgono a te seguire quello che Franco finisci già di fare questi 50 tosse la giovania dava ciao Torino ciao Manuela che nel cucino ho potuto salutarli noi QRP e con tutto ce l'hai ascoltato dopo se coincide. Ok, sì, ma taremo, la giovania ad uno, lui, dai, due. Io devo andare a comprarmelo, perché mi si era rotto quello che avevo io. Tutti allenatori di calcio. La tostiera? Sì, quello per fare i tostieri, per cui sono tutti quello da Cogli, o da Truni, o a centro casa, ecco, ma a centro casa, apre Daniele. E quando vai tempo, vai lì, ci colpisce quello che fare, il biglietto. No, diceva Anna, insomma, però ricordiamoci, un giorno di 22 anni che... Ah, ma tu vanno a mangiare, non aggiù di una commissione, vediamo un po'. Non è semplice reggere, eh. Cava, cava, ma la cosa l'ho ritirata io, Ciao, lo so. Dai, dici che andai 5 minuti di tempo e basta. Arriva mia. Cava, cava. Oggi c'è freddo, è fuori. Oggi è una giornata fredda. E beh, provato la bevi qui con lo spezzone. No, non l'ho provato ancora, fra, non ho avuto modo. Perché stamattina ero impegnato lo stesso, domani a Manzano, domattesi. E non ho già avuto dentro. Ah, cava, cava. E la devi fare domani mattina? Sì, una commissione devo fare. Già te lo dico. Devo fare un favore a una persona. Cava, cava. Stamattina ho freddo giù, la lucina. Scende un bel umidità sta scendendo. Da radiglia da rimane a chissà d'oggi, dal giorno alla notte. Ma domani ti si fa il raggaggio del tempo. Da domani migliora. Anche sabato e domenica va bello. Io lo so, qua chi non sono deciso, io lo so. Cosa fa sabato e domenica? Sole, poi lunedì mi sa che torna nuvolosa. E boh, è di Gerusalemme. Ma mi puoi darti che domani possa da lì. Allora è stato bello. Sì, sì, te lo ricordi da quant'erano quelle resistenze da mettere nei led in Natalia? Non me lo ricordo, no, me le aveva date tu usare, io c'avevo i led e le resistenze. Ha giubilato i led da usare, ma mi ha dato pure la resistenza di viuria. Ma non mi rammento della cantuera. Non le vedi che ero, però anche la resistenza, ma non lo so da quant'era. Perché se non le metti la resistenza si brucia. Ma sta chiedendo all'Antonello. Il suo stile di canto. Però mi pare non che sia mio Ed. Allora, però si deve dire Giovanni, cioè non mi vede che... Antonello è in pensione, Natali. Mi scappa. È un linguaggio moderno, potrebbe essere un anno. È andato in pensione... già 3 mesi in pensione. Ah, lo so perché l'ho trovato io l'altro giorno. Ah, lo chiedo a Adriano. Da quanto vuole te lo dico. Egli andava. Aspetta un attimo. La luce è com'è, bianca, no? Franco. Sopra. Cazzo, un attimo. Franco. Franco.